e venne il giorno in cui Pereira tornò nel suo paese. Per quale ragione? Colpo di Stato. Se si fosse trattato di questo, con il patrimonio che gli fruttava nelle banche di qui, Pereira non sarebbe tornato là. Nostalgia? Neppure. L'aneddoto del bacalhau dimostra che il menino poteva fare a meno delle radici, come del resto poteva fare a meno del potere. Ciò che l'aveva divertito era stata la conquista e quel proiettile nella nuca del generale presidente, un'emozione breve ma intensa. Il ruolo, nel significato teatrale del termine, non lo entusiasmava. Non era più il bambino che ci aveva fantasticato su. Pereira trovava addirittura interessante che se ne occupasse un sosia. Oltretutto, l'idea che Manuel Callado Crespo, il capo degli interpreti, preparasse la sua orazione funebre osservando qualcun altro, lo divertiva molto. E poi, come si è detto, il fantasma della Mae Branca dormiva con lui. I suoi incubi da agorafobico non lo invogliavano a tornare in mezzo alle folle contadine di Teresina. Ogni notte, la grande piazza vuota si riempiva nel sonno. I contadini lo accerchiavano. Faceva appena in tempo a scorgere il bagliore bianco laggiù ai piedi del lampione, davanti ai due uomini che ridevano in silenzio appoggiati a una bicicletta, e a dirsi: là è la vita, che si svegliava certo della propria morte. Cosa allora? Necessità romanzesca? Certo, era necessario che Pereira tornasse al suo paese affinché il suo destino si compisse, come l'autore annuncia alla fine del terzo capitolo. Ma non è una ragione sufficiente. Le manca quel tanto di libertà che fa sì che il buon Dio, pur dandoci appuntamento a data certa, si diverta molto delle strade che noi crediamo di scegliere e delle nostre ragioni. Pereira decise di tornare a Teresina dopo una partita bridge sotto le cime della Jungfrau all'Hotel Victoria di Interlaken in Svizzera. Avevano appena distribuito le carte e fatto le dichiarazioni. Pereira aveva una buona mano di picche e come compagno un morto che parlava bleso. Con le carte scoperte davanti a sé, il morto, un industriale francese di bagaglieria di lusso, il neologismo è suo, pronunciava bagazzieria di luffo, cianciava senza riguardi per gli usi del bridge che esigono il silenzio finché le carte volano. L'industriale era appena tornato dall'America Latina, dove era andato a fare incetta di pelli pregiate, pelli di serpenti, di tatù, di lucertole, di iguana, di caimani, eccetera. E si valeva di quell'esperienza costruttiva per permettersi una critica in piena regola delle democrazie europee e delle varie monarchie costituzionali. Laggiù, diceva, sotto i tropici, meritare il potere voleva dire impadronirsene. Tra altre capitali e altri capi, l'industriale veniva da Teresina, dove aveva trattato con il tiranno locale un certo Pereira da Ponte. Pereira, quello vero, che calava senza fretta le sue picche più alte, era al corrente di quella trattativa. Il sosia gli aveva telegrafato i termini e Pereira aveva risposto percentuali. «Era fuori discussione che stessi a ciarlare con un qualunque tirapiedi del Ministero del Commercio», continuava il francese in un silenzio pieno di rimprovero. Il presidente in persona, subito, informatissimo, fu le quotazioni internazionali e inflessibile fu le percentuali. Affare andato in porto, manodopera docile, facilitazioni doganali. Pereira sistemava le sue prese in gruppetti ordinati che disponeva di sbieco. Giocava in incognito, forse sotto falso nome, scottato dall'episodio del fisionomista. Non fuggiva lo sguardo del compagno che si rivolgeva a lui ogni volta che Pereira raccoglieva le carte e i loro sguardi si incrociavano. «Una personalità fuori del comune, quel Pereira. Dire che Pereira ha la fiducia del popolo è molto al di sotto del vero. Lo amano, punto e basta. Dall'alto al baffo della scala sociale, che del resto ha solo un alto e un baffo, e anche in questo dovremmo imitarli. È più che il presidente, è il capo della famiglia. Lo adorano come un fanto, un uomo silenzioso, peraltro. Mi ha ascoltato, ha buttato lì una cifra e si è zittito. Non restava che firmare. Un carattere, veramente.